Il punto di Stefano Folli. Dopo averlo tanto criticato per la tendenza ad annunciare senza poi realizzare, bisogna dare atto al Premier Renzi di una novità significativa. Sulla riforma del lavoro il Presidente del Consiglio va avanti con determinazione, a rischio di spaccare il suo partito, il PD. Del resto questa è la riforma più attesa, destinata a indicare anche all'Europa che l'Italia sta cambiando. A sinistra ci saranno forti tensioni, ma nulla, probabilmente, che non possa essere ricomposto a tempo debito con un compromesso e qualche emendamento. L'importante è che la riforma sia efficace nel sistema produttivo, non per togliere diritti a chi lavora, ma per creare nuove opportunità. Vedremo se Renzi, cui non difette il temperamento, avrà la forza per andare fino in fondo. Che il cammino sia in salita lo dimostra anche l'avviso di garanzia ricevuto dal padre. Qui c'è solo da augurarsi che l'inchiesta sia rapida e chiarificatrice. Occorrono nervi saldi, perché non ci sarebbe danno peggiore per il Premier di essere risucchiato in uno scontro con la magistratura in stile Berlusconi. Dopo 20 anni il Paese vuole vedere un altro film.